Allora, buonasera a tutti. La dimensione, diciamo, numericamente ristretta e raccolta di questo uditorio credo si intoni abbastanza bene, perlomeno può incontrarsi con questo libro molto, molto bello che io ho avuto la fortuna di incontrare perché me l'ha chiesto, la mia amica Rosetta me ne ha parlato e mi ha chiesto se c'era un interesse da parte della Fondazione a presentarlo e io dopo averlo visto, avere appunto capito di che cosa si trattava, ho subito detto di sì. Anche se naturalmente sono temi che io non sono temi che riguardano direttamente il mio lavoro, forse riguardano la mia biografia, perché Don Primo Mazzolari è stato il primo libro, un suo testo è stato uno dei primi libri che mi hanno quindicenne avvicinato all'esperienza di una particolare generazione di cristiani, che è quella a cui fa riferimento Enzo Bianchi nella sua breve ma molto intensa prefazione a questo volume. E dunque la mia disponibilità a ospitare la presentazione di questo libro nella Fondazione deriva certamente da una mia, come dire, da un piccolo capitolo della mia storia personale, che però si incrocia anche con gli interessi, la sensibilità verso la dimensione religiosa del fondatore di questa Fondazione, Lelio Basso, che finalmente abbiamo anche la fortuna di pensare di vedere approfondito da un giovane studioso che è qui con noi, Mirko Carrattieri, e che è un borsista, appunto sarà un borsista della Fondazione, che appunto sui rapporti fra Lelio Basso e queste particolari generazioni di cristiani del dopoguerra dedicherà una parte della sua ricerca. A me è molto interessato questo appunto, la brevissima introduzione di Enzo Bianchi, perché mette a fuoco quello che era, dunque io a 15 anni, siamo all'inizio degli anni 60, un po' prima, tra fine anni 50 e inizio anni 60, quindi è ancora con molto a ridosso appunto della formazione di questa generazione di cristiani che ha lavorato alla primavera conciliare, così come la definisce Enzo Bianchi. E vedo anche, qui ritornano elementi biografici che sono per me cari, che il volume è dedicato da parte di Mariangela Maraviglia, che è la curatrice, a sorella Brigitte e a Luciano Martini, che anch'io ho avuto il piacere, l'onore e la fortuna di conoscere all'Università di Firenze nel corso dei miei studi. E quindi questi sono, diciamo, spunti, no? Ma trattandosi di due figure così fortemente personali, come Don Primo Mazzolari e sorella Maria di Campello, credo che sia importante lasciare spazio a questi elementi, anche, come dire, dell'attenzione biografica per queste cose, anche se naturalmente subito dopo, al di là dell'interesse per queste due singolarità, queste due personalità così singolari, quello che mi ha colpito e che mi ha interessato è appunto il rapporto, la relazione che si stabilisce fra due singolari biografie così asimmetriche, così differenti, no? Che però riescono a entrare in contatto fra di loro. E in particolare quello che mi ha interessato è il rapporto fra due diversi tipi di audacia cristiana, perché a loro modo entrambi sono due audaci, no? Due che osano molto, in maniera però totalmente diversa. Cioè, Don Primo Mazzolari, con una pratica forte, impegnata e continua della parola nella sfera pubblica, nella parola pubblica, della scrittura, di una scrittura molto di battaglia, molto forte, molto militante, potremmo dire, se non fosse una parola presa a prestito da altri tipi di esperienza umana. E invece la parola di Suor Maria di Campello, una parola in qualche modo che in altre culture potremmo definire privata, e che diventa, ma che privata non è, perché poi l'esperienza a cui fa riferimento non è privata, è un altro tipo di esperienza pubblica, che però risente di un particolare accesso e di una particolare formazione, no? Molto diversa da quella della parola scritta, soprattutto scritta di Don Primo Mazzolari. A me questo mi è interessato moltissimo, cioè che cosa succede quando una parola non nata necessariamente per essere resa pubblica, però pubblica lo diventa. E infatti questa è anche una domanda che io rivolgo alla curatrice, perché il carteggio, cioè soprattutto le lettere di Sorella Maria di Campello, probabilmente non erano pensate per essere conosciute a un più vasto pubblico rispetto alla rete di relazioni, peraltro molto forte, intensa, messa in piedi da Suor Maria di Campello. Questo ne parleranno altri, e mi ha molto interessato scoprire che lei era, diciamo, lei praticava questa parola pubblico-privata della lettera, del carteggio, con personalità così diverse, da Gandhi a Albert Schweitzer, appunto fino ad arrivare a Don Primo Mazzolari, oltre che naturalmente con le amiche, le sorelle, le donne con cui aveva scelto di condividere questa esperienza religiosa così singolare e così particolare. A me è interessato soprattutto questo, ed è questo, proprio soffermandomi sulle soglie di questa domanda che rivolgo a Mariangela, che vorrei concludere questa mia introduzione, cioè proprio chiedendo che cosa cambia, che cosa passa, che cosa succede quando appunto una parola privata diventa pubblica nella forma del libro, della pubblicazione, dello strumento editoriale, siccome questa è esattamente la soglia che noi donne della mia generazione hanno attraversato in numero maggiore di uno e anche di piccoli gruppi, no? Quindi in una dimensione più ampia, e che però non ha ancora cessato di farci problema. Quindi io su questa domanda vorrei intanto ricordare a Mariangela che dopo appunto gli interventi delle persone che sono qui presenti sarà lei ad avere la parola e a risponderci, e quindi mi trafaccio subito da parte e do la parola al più giovane di tutti noi, che è Mirko Carrattieri, a cui do veramente il benvenuto con molta amicizia e gioia. Grazie. Io vorrei ringraziare in modo non rituale la Fondazione per avermi invitato a questa presentazione. Sicuramente la curatrice di questo volume, che è stato, come le ho comunicato anche per via privata, davvero molto prezioso al di là del piano intellettuale per me, e vorrei ringraziare anche un po' gli amici parmensi, in particolare della Fondazione Mazzolari, in particolare Paolo Trionfini e Giorgio Vecchio, a cui devo i contatti intellettuali con questi argomenti. Vorrei scusarmi con gli autorevoli rappresentanti qui da questa parte del tavolo e anche con voi per la mia inadeguatezza al compito, visto che io sono essenzialmente uno storico della storiografia e arrivo alla storia del movimento cattolico per vie abbastanza traverse e sto consolidando solo adesso questo nuovo interesse. Detto questo, sperando di non uscire troppo dalla presentazione, dirò che non renderò pienamente ragione alla importanza di questo volume, non entrerò almeno in questo primo intervento nel merito del volume, ma farò tre considerazioni, se volete un pochino marginali, ma che spero possano essere utili per la discussione. La prima considerazione che voglio fare deriva proprio dal mio essere essenzialmente uno storico della storiografia e anch'io di fronte a questo volume mi sono posto come sempre di fronte alla pubblicazione di un carteggio il problema delle difficoltà che porta, che richiede la pubblicazione di un carteggio privato. Io ho lavorato su questo tipo di fonte per la mia ricerca storica e devo dire che si tratta di una fonte molto preziosa ma anche molto scivolosa per tutta una serie di motivi. Ci sono delle difficoltà oggettive che derivano proprio da problemi tecnici di decifrazione, soprattutto nel caso di manoscritti, difficoltà diciamo così di interpretazione e anche di contestualizzazione notevoli. Ecco, devo dire che uno dei meriti della curatrice è quello di aver brillantemente risposto a tutte queste difficoltà, a mio parere, guidando il lettore molto bene sia nella sua introduzione sia nell'apparato di note che corredano la pubblicazione del carteggio e anche, voglio dire, prestando molta attenzione alla dimensione materiale del carteggio stesso e quindi agli elementi paratestuali e ipotestuali del testo. Va dato merito alla curatrice, secondo me, anche di aver affrontato un altro problema che riguarda più nel merito la pubblicazione di un carteggio privato, ed è la difficoltà di mantenere nell'interpretazione un bilanciamento tra l'elemento privato e l'elemento pubblico, tra la microstoria e la macrostoria. Di solito, da una parte, c'è il rischio di entrare di essere invadenti, diciamo così, rispetto alla materia trattata, dall'altro c'è il rischio di perdere un po' nel dato generale l'elemento particolare. Mi sembrano questi punti superati, ma aggiungo qualche cosa in più. Mi sembra che in particolare, visti i due interlocutori di questo scambio epistolare, la decisione di pubblicare in questo modo il carteggio sia in realtà una decisione virtuosa per una serie di motivi. In effetti, come già sottolineava Morozzo della Rocca nella biografia di Suor Maria di Campello e come anche il titolo di questo volume ci ricorda, un titolo che fa riferimento all'ineffabile, è molto difficile per un interprete esprimere un giudizio su personalità e discorsi di questo tipo. Il rischio è quello... È da un lato i rischi classici del biografismo, di calare rapidamente nella retorica quando non nell'enfasi apologetica, e d'altro canto anche il rischio in particolare con questo tipo di discorso, quello di Sorella Maria, che è un discorso molto rarefatto, se vogliamo, molto discreto, il rischio appunto di perdersi in questa rarefazione. Ecco quindi che una strada molto opportuna, secondo me, è quella di dare la parola alla stessa Sorella Maria e di pubblicare il testo. La pubblicazione del testo consente al lettore di evitare gli svolazzi e di concentrarsi sulla sostanza. Un altro elemento importante, secondo me, è la dimensione del confronto, la pubblicazione cioè di un carteggio in entrambe le sue direzioni, perché questo elemento dialogico serve ulteriormente a eliminare gli appiattimenti che dare voce a solo uno dei due personaggi avrebbe causato. Tra l'altro, io credo, questa dialogicità consente di superare anche il rischio che ho presente soprattutto per la letteratura su Mazzolari, che conosco di più, delle rappresentazioni di maniera, quando non delle strumentalizzazioni del personaggio. E ancora, vado rapidamente, mi sembra che la decisione di pubblicare il carteggio sia in questo caso utile a dare la dimensione plurale che delle relazioni che questi due personaggi intrattengono. Sono due persone che operano, che sono state giudicate anche degli isolati per certi aspetti, ma che da questo carteggio apprendiamo invece essere al centro di due reti di relazioni molto, molto fitte. E, tra l'altro, è interessante l'appunto che la professoressa Maraviglia fa circa la dimensione pubblica degli scambi epistolari all'interno dell'eremo di Campello, che queste lettere venivano aperte e lette in comunità come un elemento quasi rituale della vita dell'eremo. Ed infine lo sviluppo diacronico di queste personalità. È sorprendente pensare che una relazione tra due persone che si incontrano una sola volta, una relazione epistolare, riesca a durare per questo tempo con questa profondità e intensità. Ecco, quindi il primo punto che volevo toccare era appunto questo: la difficoltà insieme il valore di una testimonianza epistolare di questo tipo. Il secondo punto di cui vorrei parlare è invece, se volete, molto personale o direi addirittura provinciale. Porto il punto di vista della provincia padana, un po' alla Mazzolari. Io vengo da Reggio Emilia e mi sono sorpreso dei molteplici collegamenti con la mia città che ho trovato insospettabilmente in un carteggio di questo tipo tra due personalità che apparentemente con Reggio Emilia non hanno nulla a che fare. E vorrei condividerle con voi, perché anche questi altri personaggi che sono tra quelli che compaiono a margine del carteggio sono tutti personaggi di grande fascino, che presumibilmente voi non conoscete perché hanno un ruolo solo nella piccola storia locale, ma a cui volevo fare riferimento un po', come dicevo, per provincialismo e un po' perché effettivamente sono tutte personalità di una certa che sollecitano una certa curiosità. Ne cito cinque. Innanzitutto nel carteggio si fa riferimento tra i giovani religiosi della generazione immediatamente successiva a Mazzolari, che a Mazzolari devono molto, si fa riferimento a Sante Pignagnoli, che è stato per molto tempo a Guastalla, nella mia diocesi di provenienza. Si fa riferimento, e questo addirittura mi ha colto di sorpresa perché non conoscevo questo riferimento, si fa riferimento anche al pittore Giovanni Costetti, che è reggiano, che condivide con sorella Maria questo collegamento con le religioni orientali. Ma è sugli altri tre personaggi a cui si fa riferimento che vorrei soffermarmi un po' di più, perché tutti e tre richiedono, secondo me, un approfondimento storiografico ancora da svolgere. Innanzitutto è doveroso, trattando di Primo Mazzolari, fare riferimento a padre Aldo Bergamaschi, più volte citato, sicuramente uno dei maggiori esperti del prete di Bozzolo, questo cappuccino morto solo l'anno scorso, che è una presenza culturale notevole per la città da cui io provengo e che, seppur, come giustamente nota la Maraviglia nella sua introduzione, rischia talvolta nell'interpretare attraverso Mazzolari voce alla sua filosofia piuttosto che a quella di Mazzolari, tuttavia è un personaggio sicuramente molto importante, ricordiamo, è anche il curatore dei diari del prete di Bozzolo. Un altro personaggio che viene citato, anche se solo marginalmente, è Monsignor Angelo Spadoni, con cui Mazzolari ha una polemica alla fine degli anni 40. Un personaggio su cui varrebbe la pena di studiare e che ancora, né a livello locale né a livello nazionale, ha trovato il suo storico adeguato. Parliamo di un prete, di un monsignore, che è stato a lungo anche dirigente del seminario cittadino, che ha esercitato un'influenza intellettuale e non solo su personaggi di grande importanza, uno fra tutti Giuseppe Dossetti, il quale nel corso degli anni 30 E poi, soprattutto negli anni 40, si scontra con la gerarchia diocesana, con due vescovi, uno dopo l'altro, fino poi ad essere escluso dall'ordine, scomunicato e strumentalizzato anche dalla politica comunista locale. Quindi è singolare anche questo riferimento. Ed infine, questo mi è più fresco, il riferimento a Padre Placido da Pavullo, Paolo Piombini, che è il primo editore di Adesso, da Modena, e altro personaggio veramente notevole. Anche su questo la rivista dell'Istituto Storico dove lavoro a Reggio Emilia ha appena pubblicato un insospettabilissimo carteggio tra questo Padre Placido e Luigi Einaudi, cioè due personalità che francamente di cui è sorprendente vedere il collegamento. Ma questo Padre Placido, che giustamente viene trattato abbastanza male da Mazzolari e in generale nel volume, come poi in tutta la letteratura mazzolariana, è in realtà un personaggio a sua volta di cui approfondire la storia. Padre Placido viene trattato abbastanza male perché legittimamente, perché da editore di Adesso causerà poi di fatto la prima chiusura del giornale all'inizio del 51, nel senso che provocherà dei buchi di gestione all'interno del giornale, poi addirittura si rivarrà su Mazzolari accusandolo ingiustamente nei confronti di alcuni importanti vescovi italiani. Ma detto questo, poi ritratterà, come gli succede spesso nella sua vita, e troverà il perdono di Mazzolari, come anche il carteggio testimonia. Ma è un personaggio veramente straordinario. Pensate che era stato a Reggio, dove poi a Modena, dove sarà diciamo così il leader morale dei Cappuccini, era stato prima uno dei più fervidi clerico-fascisti reggiani, per poi diventare uno dei protagonisti dei comitati interpartitici antifascisti durante i 45 giorni, in rappresentanza, pensate un po', del Partito Cristiano Sociale, e fuggirà poi in Svizzera, dove conoscerà Einaudi e stringerà questo rapporto testimoniato da questa lunga rapporto relazione epistolare. E poi tornerà appunto in Italia, a Modena, dove sarà editore di Azione Francescana, quindi di una pubblicazione molto importante, e poi il primo editore di Adesso e studioso, per esempio, di Rosmini ad alto livello. Quindi cinque personalità, secondo me, interessanti, che curiosamente ho incontrato in questo carteggio e che mi ha fatto piacere ritrovare. L'ultimo punto che vorrei trattare, anche questo, ripeto, del tutto periferico, ma che spero possa essere in qualche modo utile, è anche in omaggio al luogo che ci ospita, è il riferimento all'interessante materiale archivistico che sul tema del mondo cattolico novecentesco è raccolto qui alla Fondazione Basso. Ci sono anche se, come si diceva prima, io affronterò nel prossimo futuro una ricerca su Basso che è dedicata soprattutto ai suoi rapporti col cattolicesimo post-conciliare, ebbene ci sono anche per il periodo a cui si fa riferimento in questo carteggio, che è il periodo della vita di Mazzolari, e quindi il periodo proprio che quasi non solo materialmente ma anche idealmente termina con la vita di Mazzolari e subito dopo vedrà l'avvento della stagione conciliare. Anche su questa stagione, da un rapido sondaggio, ho verificato la presenza di materiali interessanti. Materiali direttamente presenti all'interno del fondo di Basso stesso, per esempio le relazioni con un altro dei rappresentanti della generazione post-mazzolariana, parlo di Giuseppe Delbo, che finisce alla Fondazione Feltrinelli e con cui quindi Basso intrattiene dei rapporti di carattere editoriale, ma penso anche ad altri personaggi toccati, seppur marginalmente, in questo carteggio, come per esempio Padre Balducci. Poi ci sono dei riferimenti importanti nei fondi dei Cristiano Sociali, in particolare nel fondo Bruni e nel fondo Palmerini. Ci sono delle lettere a Mazzolari, ci sono dei testi su Mazzolari degli anni 50. Ed ancora riferimenti importanti nel fondo ad Alessandrini, in particolare, anche qui con un po' di provincialismo, ma lo ricordo, quel convegno delle avanguardie cristiane del gennaio del 1951 che si svolge a Modena e di cui si parla anche in questo carteggio. Ecco, penso cioè che anche questi materiali possano servire ad una doverosa opera di ricostruzione di questo periodo, diciamo così, se vogliamo, un pochino trascurato della storia del cattolicesimo italiano, questi anni 50, che in particolare faccio riferimento a questo periodo, anche se, perché mi sembra che gli altri percorsi del carteggio stiano trovando una rappresentazione storiografica adeguata. Dicevo, questo periodo degli anni 50, che traggo anch'io una citazione da testi di Bianchi, che possiamo definire di nascosto fervore e di attesa creativa. Ecco, senza cadere in teleologismi, anche qui vorrei evitare il cliché del Mazzolari anticipatore del Concilio, peraltro con cliché che ha dei suoi fondamenti, come tutti i cliché, ma direi che anche questo carteggio e la ampia introduzione che lo correda ci invitano a lavorare su queste carte e più in generale su questa stagione, che è una stagione piena di sfumature, di complessità, che troppo spesso viene invece ingessata all'interno di una interpretazione monolitica del cattolicesimo, così come è avvenuto per altre stagioni. Penso per esempio agli anni 30, ecco, credo sia doveroso anche su questo decennio lavorare. Grazie. Grazie a Mirko Carrettieri, che mi sembra abbia, come dire, ci abbia fornito una valida e robusta introduzione ai temi, no? Che poi credo invece saranno più al centro dell'intervento di Emma Fattorini, che credo voglia entrare ancora più nel merito del volume in questione. Grazie. Emma, sì. Allora, ma io intanto volevo dire una premessa così un po' vicina. Un po' banale, cioè io ho trovato, quando lessi la biografia di Morozzo, che è sempre molto bella anche adesso riguardandola, ho avuto un innamoramento vero per questa figura, proprio l'ho trovata straordinaria, straordinarissima da tanti punti di vista, spirituale, dal punto di vista delle donne, e dal punto di vista delle grandi relazioni col mondo, di relazioni col maschile del Novecento, cioè, una figura veramente notevole, e mi sono sempre stupita del poco interesse che questo ha suscitato anche quando poi le cose escono, perché questa biografia, adesso c'è quest'altro bellissimo carteggio e noi ne parliamo qui, ma anche, insomma, è sempre un interesse molto stiracchiato, che non fa, che io non riesco a capire. È una domanda che vorrei che la discutessimo, insomma, no? Cioè, ci sono figure, no, per dire, anche negli anni in cui diciamo, un certo cattolicesimo più critico, diciamo, di più dissenziente, aveva più voce, non era mai comparsa. Cioè, pensiamo ad Adriana Zarri, altre figure monastiche un po' eterodosse. O questa, cioè, questo è proprio un problema che vi pongo. Dunque, ora vorrei dirvi perché per me è così straordinaria. La sua straordinarietà più grande sta in questo unire l'idea del piccolo, vissuta, praticata, in senso francescano, quindi la minore, con questo suo rapporto col mondo. In realtà è una che da lì ha il rapporto con le cose più significative, con le figure, i personaggi più del mondo, anche se grandi figure spirituali, ma comunque che stavano assolutamente nel mondo del Novecento. E quindi questa sua capacità di relazione. Questo piccolo, che anche questo potrebbe non essere niente di particolarmente originale in una scelta di spiritualità contemplativa, ma in lei ha delle caratteristiche particolari, lei non vuole neanche essere fondatrice, mentre di fatto poi lo è, questo almeno, ma non si considera una, naturalmente non una teologa, non un intellettuale, ma non una, non vuole fondare un ordine sostanzialmente, non vuole strutturare in nessun modo, anche dal punto di vista del tutto estemporaneo, cioè voglio dire, non è solo perché rifiuta la regola, le regole, proprio non vuole neanche la non regola. Ha questa forma di leggerezza che è perseguita con una, cioè con un'acribia e una perfezione tutt'altro che episodica, insomma, è sistematica nella sua determinazione a non determinarsi mai. Lei non si vuole determinare mai, non vuole essere una disubbidiente, non vuole essere un'eretica, non vuole anche essere una ossequiosa, dice io rispetto, soffro. Anche il rapporto col modernismo, che vedremo sarà una delle chiavi, quindi con Buonaiuti, nella bellissima lettera qui riprodotta, che era già stata pubblicata, ma questa è la versione che lei scrive a Mazzolari, è interessantissima, la lettera che lei scrive a Pio XII, per anche capire tutte queste poi ritorsioni che venivano fatte alla sua esperienza spirituale all'eremo. Ecco, anche in tutta questa versione qua, lei non ha mai un'ostentazione di eterodossia, non solo non si compiace mai, che voglio dire, questo appartiene a una maturità della spirituale, ma proprio c'è qualcosa di più, insomma, ecco, dico, è proprio una determinata a non determinarsi. Allora, però lei è molto attratta dal mondo, è molto attratta da chi il mondo lo vede, lo segue, da chi pensa, da chi scrive, dagli uomini che hanno un peso importante in tante cose, con sempre questa diffidenza molto detta chiaramente, per poi le tre grandi forme in cui avviene lo stare nel mondo, no? Le grandi seduzioni sono il potere, il sapere, il potere attraverso la politica, il sapere e la conoscenza. Lei, vi leggo alcune cose, perché tanto vale che tanto è molto più efficace leggere lei che non sentire le mie chiacchiere. Lei dice, in un'autorappresentazione dell'eremo: non desideriamo né protezione né appoggi né privilegi, siamo grati a chi ci porge la mano fraterna, viviamo in semplicità nella Chiesa, in comunione con il Papa e i Vescovi, non siamo chiamati ad opere di apostolato, e qui è chiaro perché non c'è una vocazione di vita attiva, questo è evidente, o di assistenza pubblica, non siamo chiamati a riscuotere apprezzamenti o consensi, ma desideriamo vivere una vita nascosta. Ecco, questa idea comunque di non volere consensi, quindi non, ma neanche di senso, cioè una forma di proprio di voler scomparire, dire semplicità è poco. Altri piccoli focolari come il nostro possono formarsi in luoghi adatti. Con gioia e riverenza renderemo loro un servizio in qualunque cosa richiedesse l'aiuto della nostra esperienza. Dunque non si pone come punto di riferimento di proselitismo di un altro ordine, però non disdegna neanche che ci sia una accettazione, che questo, insomma, lasci che fosse un seme che poi possa anche produrre altri frutti simili. Allora, cosa ci viene? A me l'unico esempio che vagamente mi può far venire un riferimento del genere, forse un po' più successivo, è quello delle piccole sorelle di padre Foucault, cioè quello di vivere un'esperienza di condivisione, punto, cioè dove non c'è voglia né di prevaricare né di essere doloristicamente martiri o sacrificali sul piano sociale, insomma, della missione anche verso i poveri, ma di essere appunto in condivisione assoluta con la situazione, col luogo. Solo che lei, a differenza delle piccole sorelle o dei piccoli fratelli che vivono la condizione sociale, se non come, diciamo, promozione, però come condivisione sociale, quindi nel mondo proprio delle relazioni sociali con i poveri, con i diseredati, lì c'è l'eremo. Questa è la caratteristica. Un'altra cosa che, anche questa se vogliamo non è specifica, ma in lei ha dei caratteri, io trovo, poi sentiamo chi la conosce meglio, molto particolari, molto approfonditi, a me mi paiono interessantissimi, e che sono anche quelli che le consentono questa sorta di ecumenismo, ecumenismo anche questa è una parola troppo debole per lei, insomma, questa apertura totale verso l'umano e verso lo spirituale là dove esso avviene, è quella sua, quella che è stata tanto criticata, chiamata come panteismo pancristiano, cioè il suo rapporto con la natura. Questo bisogno, lei dice, lo riporta benissimo la Maraviglia a più riprese, quando lei dice ho bisogno di respirare, come dice, di spazio ampio, di essere senza confini, con largo respiro, che è un riferimento classico anche questo della spiritualità contemplativa. In lei però ha queste caratteristiche di... No, questo qua, c'è una citazione sempre molto bella... ha questo rapporto con la natura che metteva molto in sospetto, perché siamo anche in un'epoca in cui questi aspetti ci sono, cioè ci sono derive, come dire, esoteriche, naturalistiche, che sono delle filiazioni strane del modernismo, l'orientalismo che è visto con molto sospetto, a cui lei appunto è ovviamente molto legata, in altri punti la Maraviglia scrive, ecco, come lei una volta disse, ed è una frase molto strana per lei che non è mai giudicante, non giudica mai nulla, dice l'Occidente mi fa paura, amo l'Oriente perché l'Occidente mi fa paura. Ci sono tantissimi esempi di questo suo rapporto con la natura fortissimo, che a me hanno colpito molto perché vanno oltre la dimensione francescana della contemplazione della bellezza, del silenzio, dell'ordine, dello scandire delle ore, sono proprio un qualcosa di forte, non dico di carnale, perché lei questa dimensione così intensa forse la tiene sempre molto, però certo sono intensamente sincretiche con la natura. Ogni sera Maria lascia un bicchiere d'acqua sul davanzale della finestra della cella per berne poi al mattino dopo l'influsso delle stelle. Simbolicamente le stelle richiamano il divino e l'acqua il dono di Dio. Prima di bere Maria recita francescamente il cantico delle creature, laudato sì mio signore per sorella acqua. Ugualmente all'eremo si usa pregare per frate fuoco, e tutta questa dimensione della natura è mutuata chiaramente da Francesco e anche da Chiara, ci sono esempi, riferimenti. A me però colpisce, ripeto, questa precisazione. Ci sono delle descrizioni, per esempio, dell'ulivo, che se ai tempi dell'ulivo Prodi l'avesse letta, per esempio, gli sarebbe servita moltissimo. No, ci ho proprio pensato, ci sono delle c'è tutto un lavoro sull'ulivo che è incredibile. Tipo, l'ulivo ci insegna a contentarci di poco, a non avere paura di quello che costa o sembra fare male, perché se dopo aver sofferto fatiche e privazioni potremo dare il frutto che il Signore si aspetta da noi, come da ogni pianta. L'olio ci insegna di voler essere fratelli della luce, alimenti, conforto, medicina, è un esempio di sincerità, di servizio. Cioè lei è come se scarnificasse tantissimi aspetti della natura, ci entrasse proprio dentro. Questa è una forma di, appunto, molto più che di sincretismo. Nelle sue preghiere di addio, quella quando sulla morte, morte che lei, adesso non abbiamo tempo di leggere tante cose, ma insomma, è di un interesse strepitoso, lei oltre a salutare francescanamente con una bellissima poesia in cui ricorda e saluta tutte queste parti della natura, quell'albero, i fiori, soprattutto quelli azzurri, cioè con una... E poi ha questa visione, in questo qui, anche questa molto classica, invece, che presuppone la morte come espressione della vita, cioè dice io, in quanto proprio sono un'appassionata amante della vita, e questa è un'altra caratteristica che le consente concomitanza, questa comunione con le altre religioni, l'umanesimo, la natura e il senso della vita che unifica tutto, e quindi molto senso orientale, quindi molta paura destava questo nelle gerarchie, tutto l'ensemble. Lei ha questa idea della morte come espressione di distacco, di dolore, legata però a un senso della vita fortissima. Ci sono dunque degli aspetti che ricordano Théa de Chardin in questa visione cosmica, no? Sono tantissimi riferimenti che si potrebbero fare appunto anche all'esoterismo orientale, ma in lei dice sempre io non lo so, non mi interessa, non voglio ricercare nessuna filiazione teologica, nessun approfondimento, ma anche lì senza compiacimento antiintellettualistico, non è che dice perché con la sapienza inganna mentre lo spirito, no, dice chi lo fa bene, se possiamo imparare impariamo, ma così è, cioè questo senso di grandissimo abbandono e accettazione. L'ecumenismo sarà, io dico ecumenismo perché è stato usato spesso questo termine, ma è molto improprio secondo me, perché anche lì non c'è la volontà di mettere a confronto le altre religioni, di trovare un terreno comune. Non c'è, ovviamente, sul piano pastorale, teologico, ma neanche nella prassi. Lei e la sua sorella indiana, dimmi se sbaglio, perché questo non l'ho approfondito mai, però lei questi rapporti con l'anglicana, con l'indiana, li fa in modo molto naturale, molto tranquillo. Quando nelle lettere spiega sia a Mazzolari che anche, mi sembra, a Papa Pio XII, dice, vabbè, lei è talmente, sarebbe proprio più cattolica di noi, questa qui, come dire, concede anche alla tradizione il fatto che certo è meglio essere cattolici che non buddisti o anglicani, però ecco, non è un problema né in un senso né nell'altro, e quindi il comunismo non è adatto, è riduttivo sicuramente, però ci fa capire senz'altro invece le diffidenze che questo le creava nel clima di allora, nelle varie fasi di isolamento, più soprattutto col suo vescovo, la difficoltà di avere la comunione tutti i giorni, il fatto che mai gli hanno concesso di tenere il sacramento, di tenere l'ostia nell'eremo, insomma. E quindi questo del rapporto con le religioni è uno dei punti che insieme agli altri focalizzano e amplificano la diffidenza che si ha verso di lei, soprattutto sul tema del modernismo. E in questo senso il rapporto con Buonaiuti, perché abbiamo già sentito, come diceva Gabriella, cioè lei è al centro di queste relazioni con uomini, vi dicevo, è molto interessante quello che ci abbiamo sentito prima, perché da Mirko Carrettieri, anche per questo, perché lei non solo è minore e c'è lei è il mondo, cioè la solitudine del mondo, ma c'è il mondo di questi uomini che stanno nel mondo e queste figure della provincia che scorrono, capito? Questo è interessantissimo, tu hai Gandhi e poi ti trovi, capito, il parroco della diocesi di Reggio Emilia, e questo ti dà un senso di realtà e di vita straordinario, che allude poi proprio al tema dello specifico della relazione uomo-donna nella Chiesa del Novecento, insomma, poi queste famose relazioni che chiamo eccellenti. Comunque, questo con Buonaiuti, tra questi grandi personaggi, è quello che forse è più sistematizzato, come ci fa meglio capire il rapporto col modernismo e quindi le diffidenze che lei, di cui lei era oggetto. Appunto, la spiegazione che dà Pio XII sono dell'ordine che vi dicevo prima. Lei dice, per me la fraternità riverente verso le chiese cristiane, verso i fratelli separati, verso ogni esperienza religiosa sincera, seppur diversa dalla nostra, è mandato inflessibile ed è anche luce sul cammino. Cioè, per questo il comunismo non basta, perché non è che lei ha una linea più o meno aperta di comunismo, cioè lei prescinde proprio dal discorso ecumenico, nel senso che l'autenticità del riconoscimento spirituale è quello che fa la verità della sua esperienza di fede. Per questo mi sembra sempre strano che questi aspetti non abbiano, anche in tempi meno difficili di adesso, diciamo, per un cattolicesimo critico, ma ed è proprio luce del suo cammino, quindi non è un dialogo che viene dopo un'esperienza spirituale, è fondativo della sua, diciamo, del suo ordine, se fosse un ordine, comunque della sua impostazione. E poi per spiegare la sua scelta è molto semplice. Io ho bisogno di più largo respiro. Parla della sua famiglia, e questo è molto carino, perché lei, parlando con Pio XII, ricostruisce tutte le glorie familiari, come fanno tutti i cattolici devoti verso le gerarchie, cioè c'era mio fratello, era il generale del corpo d'armata, no? Cioè, mia madre, l'amica del vescovo, quell'altro parere. Cioè, questa di sciorinare e spegnere tutto il proprio curriculum, sì, doc che si deve sempre. Poi finisce, come dire, questo io l'ho fatto, cioè anche questo, non me ne vergogno, non lo rinnego, poi dice punto, ma io ho bisogno di più largo respiro, cioè a me non interessa poi stare lì con il generale, col cardinale, col vescovo. Poi dice, ho conosciuto Benedetto XV, cioè questo rapporto con le fasce alte, col potere è molto interessante. Volevo una vita fraterna, regolata e custodita dalla disciplina religiosa, che serve alla formazione del carattere, al risparmio del tempo, all'armonia interiore ed esteriore. Vedete anche qui, cioè c'è un'addizione molto, molto minimal. Cioè la sua disciplina, cioè la sua regola, diciamo, si misura la disciplina religiosa e che serve alla formazione del carattere e al risparmio del tempo. Questa è un'altra espressione molto che viene usata. Cioè che non è l'ora et labor, un tempo impiegato bene, il tempo dell'ozium, del negozio, tutte le lavorazioni. Dove mi viene in mente il libro di La Valle, no? Di Napoleone, grandi disquisizioni, cacciari sul gratuito, sul tempo. No, qui c'è, cioè, il risparmio del tempo, perché fa risparmiare il tempo. Io lo trovo anche un'essenzialità femminile straordinaria. Incontrai difficoltà e durezze che furono pietre miliari, che io benedico, anche qui, secondo una classica tradizione. Allora, lei costruisce tutta questa sua, diciamo, identikit per non giustificare, ma per fare capire al Papa, che all'inizio aveva interpellato dicendo mi scusi se io non mi esprimo col cerimoniale d'uso, ma anche lì senza ostentare la sua... Ma io non la vivo come pastore, come segno di cuore di Dio, quindi io non... Ed è un modo subito per dire che si colloca in un rapporto come di fede paritario e non come Papa. Allora, lei spiega tutto questo per dire a lui, per capire come si colloca la sua relazione con Buonaiuti. Quindi non per giustificarsi o per scammarcarsi, ma... Non può credere che la mia amicizia, dunque, con del resto Buonaiuti, non sia un inquinamento, non può togliere le disposizioni date dal suo predecessore? Io trovo molto semplice di accettare questo stato di cose senza turbamento, rimanendo referente, deferente e leale verso il superiore. So benissimo, perché lui era stato scomunicato, Buonaiuti, quindi chiunque si trattava con uno scomunicato entrava anche lui nella... So benissimo che la scomunica vieta i rapporti con lo scomunicato, a parte i familiari, o che abbia gravi ragioni, ma io ho la più grave delle ragioni, quella di un'amicizia indefettibile che oso chiamare santa, come se in questo attimo dovessi rendere conto della mia coscienza dinanzi a Dio. Quindi questo rapporto con chiunque abbia una religione sincera e questa fedeltà all'amicizia come valore fondativo è quello che definisce in questa semplicità la sua caratteristica, diciamo, la regola, ciò che la ispira. E anche qui c'è un bisogno, cioè lei vuole stare sola, dice sempre, no? E togliere, spogliare, ridurre, eliminare il più possibile, però lei all'amicizia ha una forma quasi di attaccamento, se non fosse come dire, quasi giudicante dirlo, perché per lei è ogni forma di attaccamento. Ho sempre cercato di non tradire la mia coscienza, non potrei farlo in quest'ora estrema. L'unica volta che andò a Buonaiuti, no? Com'era quando stava per morire, no? E, sì, anche qui c'è l'elemento della coscienza, che è un altro dei grandi filoni della spiritualità novecentesca successiva al modernismo, che poi finisce col concilio, ma anche in questo caso, come sull'ecumenismo, la coscienza è riduttiva, non è solo una cosa di coscienza in questo caso, ma c'è questa anche sorta di sentirsi chiamati, quasi una divinazione, se non fosse anche questo un po' quasi sacrilego dire, ma insomma sentirsi chiamata come un pezzo dei tanti suoi pezzi della natura si contornava. Adesso non sono arrivata a parlare di Mazzolari, ma adesso vedete voi, mi sono totalmente presa da lei, perché non ne parliamo mai, che io appena posso. Allora, chi è lei è questo, chi è lui ce lo dirà molto meglio Maraviglia di me. Io purtroppo non conosco poco Mazzolari, ma l'altro anno avremo occasione, se c'era questo bel anniversario, altra figura da recuperare moltissimo, moltissimo, perché esce da tutti i rischi integralistici, potrebbe essere l'occasione per smarcarci da questi dibattiti estenuati tra Tiocon, integralisti, sinistra e destra. Cioè Mazzolari è una grande figura che proprio può consentire tante cose. Io anche lì però l'ho più intuita, che non ho mai studiato, approfondito, quindi non posso dire. Lui amava le donne, comunque aveva tante relazioni con le donne, e quasi vorrei dire che si potrebbe, però non lo so, conoscendo poco lui, potrebbe essere un esempio, una metafora di quelle relazioni che io ho chiamato eccellenti, che sono eccellenti perché riguardano personaggi, diciamo, che sono fuori dalla normalità, ma che sono invece anche molto normali, o che sono anche super eccellenti, non è detto, ma che sono quelle che tra uomo e donna nel Novecento segnano un po' delle svolte. Adesso vado veloce perché ho parlato troppo, no? Comunque, cioè, quando inizia, noi anche come storiker questa periodizzazione ormai la diamo, è un po' come l'ABC, cioè di considerare che la secolarizzazione indotta dalla Rivoluzione francese sposta l'asse di interesse della Chiesa dal settore alto, maschile, a quello femminile. Questo è la grande assioma, la grande svolta antropologica del secolo, praticamente, con questa inedita alleanza tra donna e prete, che avviene a tantissimi livelli, avviene nel privatissimo del confessionale, in cui il prete tramite il confessionale arriva al marito, avviene in 3.000 modi, avviene nel cambiamento con cui ci sono le direzioni spirituali rispetto all'ancien regime, direzioni spirituali che sono molto più, anche quelle precedenti peraltro, ma a questo punto ancora più spesso ribaltate, in cui è più la donna che porta spiritualità e l'uomo più il mondo, rispetto alle figure, insomma, di gesuiti, di Carteggio del 600, per esempio. Adesso guardavo questo di Cordonet, come si chiama, il gesuita, che era la relazione spirituale con le visitandine, o altro, quelle famosissime di Teresa d'Avila, no? In cui certo lì c'è il ribaltamento, perché c'è una personalità di una altezza spirituale enorme. Nel Novecento è più frequente che avvenga questo, cioè che sia quasi la donna ad illuminare di fede l'uomo, e sia l'uomo a portarne invece gli aspetti, la conoscenza del mondo, il potere, la politica, il peso della Chiesa come istituzione. Io ho studiato di più il rapporto e la relazione, per esempio, tra Coari e Rebora, e viene fuori con delle cose inedite, bellissime, che adesso cominciano a uscire, ma nell'archivio che c'è all'Istituto per gli Studi Religiosi di Bologna, c'è l'archivio Coari, viene fuori che era Coari ad aver convertito Rebora, e poi averlo messo in contatto con Giovanni XXIII, con Schuster, quindi con i grandi poi della gerarchia, ma tutta la dimensione spirituale avviene attraverso di lei, quindi con un ribaltamento molto, molto, molto frequente, quasi una metodica. Ecco, io credo che in Mazzolari ci siano tanti di questi aspetti. C'è un bel saggio della Roberta Fossati, che ha studiato queste cose, forse è quella che più conosce tutti i meandri del femminismo modernista, e lei ha ricostruito dal fondo Mazzolari tantissime epistolari di interesse diversificato, insomma, alcuni meno, altri molto di più. Per esempio, in alcuni viene fuori quello che diceva prima, intervenuto prima di me, quando parlava per esempio di una vivacità spirituale che si ritrova negli anni 50 e che viene fuori in queste lettere in modo interessantissimo. Poi viene fuori un'altra cosa, poi finisco proprio, che vorrei chiedere alla Maraviglia, e cioè viene fuori per esempio i rapporti incrociati. La Pirelli, questa grande signora della grande borghesia milanese, che diventa la, cioè quella che aiuta Don Zeno a fondare Nomadelfia, no? che ha un grandissimo rapporto anche con Don Mazzolari e cerca di unire i due, cioè cerca di superare molte diffidenze che aveva Mazzolari verso Don Zeno, perché li considerava troppo caritatevole, troppo, cioè, Mazzolari aveva già fatto una scelta molto più legata all'impegno anche nella politica, ed è interessante, ma questo lo chiedo perché io non l'ho studiato, ho visto queste ricerche della Fossati dove dice delle cose molto belle, e ci sono delle lettere pubblicate da lei in cui cerca di convincerlo di trovare un'unione, lui risponde, Mazzolari dice, le nostre strade sono diverse, come diverse sono i nostri temperamenti, diverse le nostre convocazioni, ma tutto converge, no? Non mi ha convertuto in buono. E il segno dell'unità è la tribolazione, quindi obbedienza e fedeltà, però lui dice i movimenti caritativi, come Nova Delfia, non fanno paura, anche se dietro si intravedono problemi scottanti e soluzioni, cioè dire non voglio coinvolgere l'esperienza di Nova Delfia nelle mie condanne, nelle mie emarginazioni politiche. Allora interessante, vorrei chiedere anche questo, ecco, come da queste relazioni a due che evocano le vecchie direzioni spirituali e che anche nel Novecento hanno quella cifra lì, perché anche se la donna è spesso lei che fa aggiunge un surplus di spiritualità, però la richiesta è quasi sempre della donna verso il prete, della donna verso l'uomo, a che lui la diriga, anche se poi è contrario. E, ecco, interessante vedere anche queste poi relazioni incrociate, cioè di essere centro di diverse relazioni. In qualche modo Maria lo fa con questi grandi, no? Anche interessante come lei parli di buon aiuto con Mazzolari e Mazzolari di buon aiuto. E questo pure è molto interessante, perché poi significa vedere che parti lei gioca e che cosa fa giocare a loro, in che parte si mette in queste differenze maschili, cioè è un modo indiretto di gestire un grande potere di fatto, lei che esordisce sempre dicendo che non le interessa, ed è vero, ed è assolutamente vero, non è una falsa coscienza, è proprio così, in questa forma di grande semplicità. Ecco, si può andare avanti all'infinito, io basta, dico solo queste cose, faccio queste domande, mi insisto sulle domande e vi ringrazio. Cerchiamo di andare avanti in questo lavoro perché è bellissimo. Grazie. Prima di dare la parola a padre Van Zan, volevo riprendere un filo che ha molto bene preso in mano Emma prima, e c'è questo rapporto asimmetrico, no? Tra donne e uomini nel cristianesimo del Novecento, e che però naturalmente ha radici più lontane e probabilmente si allunga anche. Ecco, io mi chiedevo, proprio ripensando anche a un altro episodio che si collega a quanto ricorda Mariangela Maraviglia nella sua introduzione, cioè il ruolo giocato dalla spiritualismo fiorentino della prima metà del Novecento in questa rete di relazioni in cui si muove anche sorella Maria di Campello, no? Perché qui viene evocata una delle famose ville fiorentine di cui tanto si è che sono entrate nella leggenda, no? Cioè le ville nelle colline di Firenze, queste ville belle, aristocratiche, ricche, in cui aleggiavano queste conversazioni, si riposavano dai rigori o meteorologici o politici i protagonisti di queste grandi battaglie culturali e anche religiose. E questa qui viene ricordata la villa di Guido Ferrando a Nieca van Legget, dove appunto alloggiavano le sorelle di Campello durante l'inverno, perché nell'eremo di Campello non c'era riscaldamento e quindi si moriva letteralmente di freddo. E mi è venuto in mente, a proposito di queste ville, un'altra famosa villa, la famosa villa in cui si trovava rifugio Giorgio La Pira con la sua grande adepta Fioretta Mazzei. E questo è un altro esempio, il rapporto fra Giorgio La Pira e Fioretta Mazzei, su cui si sono già soffermati molti, perché Fioretta Mazzei è stata una protagonista della vicenda politica fiorentina, non solo spirituale, ma anche direttamente politica, perché Fioretta Mazzei è stata, che era discendente di Serlapo Mazzei, vorrei sottolineare, vale a dire il migliore discepolo di Savonarola. Grande aristocrazia fiorentina, grande continuità, cioè probabilmente un'eredità, come dire, spirituale, politica, non so, insomma, difficile da precisare, ma certo non da ignorare. E Fioretta Mazzei, ripeto, che aveva conosciuto appunto Giorgio La Pira, rifugiato presso la villa, la bellissima villa della famiglia sulle colline fiorentine, da ragazza, e ne diventa una degli interlocutrici più serrate, no? Fioretta Mazzei, terziaria francescana, non si sposa, non però prende questi voti minori, che sono quelli dei minori anche rispetto ai minori francescani, che sono quelli dei terziari francescani, ed è assessore ed è consigliera comunale di Firenze dalla liberazione fino all'inizio degli anni 90, cioè proprio una lunghissima militanza proprio istituzionale, in cui però lei gioca questo ruolo di ambasciatrice nel mondo, perché parlava le lingue, era questa famiglia colta che gli aveva trasmesso, e in qualche modo rappresenta questa presenza che mi ha molto colpito, sia in quello che diceva Emma, ma anche nell'introduzione di Mariangela Maraviglia, cioè questa presenza del mondo nello spiritualismo fiorentino degli anni 50. C'è il mondo come c'era in Giorgio La Pira. Giorgio La Pira, quando immaginava Firenze come la nuova Gerusalemme, è perché lui la vedeva, era questa, come dire, geopolitica spirituale, no? Che lui aveva in mente quando parlava di queste cose. E anche qui c'è un rapporto femminile in cui Fioretta Mazzei, fortissima, cioè uscito adesso da non molto tempo il suo diario, che lei ha scritto per tutta la vita, non curato dalla Scattigno, da un'altra persona, però la Scattigno ci ha lavorato molto sopra, e insomma da questo diario viene fuori questa forza di questo rapporto, in cui però gli uomini, e questo è un interrogativo che mi veniva precisandosi nella testa, seguendo un po' le suggestioni di Emma, sono, come dire, i traduttori istituzionali. Funzionano, potrebbero funzionare da traduttori istituzionali di una ispirazione, di un'energia, di desiderio, di pensiero, di forza, no? Di respiro, che è molto femminile e che però si appoggia molto sulla tradizione, in qualche modo sulla traduzione istituzionale maschile. E questa è una cosa su cui bisognerebbe riflettere, perché molto più recentemente, proprio in questi ultimi tempi, c'è una esponente del femminismo milanese come Lia Cigarini, che Rosetta, qui presente, ben conosce, che ha riproposto questa funzione del maschile anche oggi, proprio auspicando che in qualche modo gli uomini o il maschile contemporaneo, che è in grave difficoltà a trovare per conto suo delle risposte alle domande sempre più inevase, no, del nostro presente, si mettano in qualche modo al servizio di questa spiritualità femminile di nuovo conio, di cui il femminismo, soprattutto quello milanese, è uno degli aspetti, non l'unico, ma uno degli aspetti, e in qualche modo si rendano utili, no? Si mettono al servizio di questa nuova energia, no? Mentale, creativa, simbolica, femminile, e si mettono al servizio con la loro maggiore vicinanza al linguaggio istituzionale, no? Cioè rendano, mettono il loro linguaggio, la loro familiarità con il linguaggio simbolico, istituzionale, invece rispetto a questa energia femminile. Ecco, mi veniva in mente questo come uno degli elementi su cui riflettere, e però, insomma, adesso ascoltiamo con la domanda. Sì. No, è giustissimo tutto quel. Quando io dicevo prima, esordivo sulla poca poco eco che ha avuto la figura di Maria, pensavo proprio al cattolicesimo fiorentino, perché è vero la traduzione istituzionale, ma anche in quella cultura lì, che non era istituzionale, ma che era del dissenso, banalizzando, diciamo, del cattolicesimo post la pira, queste figure non erano considerate, cioè è incredibile, cioè, è un altro discorso ancora da quello che dici tu, però insomma fa effetto. Adesso ci sono, lo dico anche perché adesso c'è questo convegnone a Firenze sul cattolicesimo fiorentino, e notavo proprio questo leggendo queste cose per Oggi Noi, e dicevo, ma è incredibile come non ci fosse riferimento, ci fosse sempre poco riferimento alle esperienze monastiche nelle esperienze di Balducci, anche di La Pira. E nulla su di questi rapporti femminili. Comunque basta, scusa. No, io credo mi sono fatto una mia idea del perché. Sì, esatto. Ed è che diciamo, queste esperienze sono, a mio parere, trasversali rispetto alla rigidità del fronte destra-sinistra, che a un certo punto ha soffocato invece gli elementi più trasversali, no? Che attraversavano. Potrebbe essere questo, non so, no, adesso molto rapidamente detto, ma insomma. Ma io vorrei semplicemente fare qualche sottolineatura alle tante cose dette, anche per lasciare spazio a Mariangela, che è meraviglia, ha da dire molte più cose di quanto possiamo dire noi. Io innanzitutto, prendendo lo spunto a quest'ultima così intuizione, che mi pare molto giusta, sia di Emma Fattorini sia della nostra conduttrice, uomini e donne nella Chiesa, questa reciprocità asimmetrica, che peraltro Giovanni Paolo II nella Mulieris Dignitatem l'ha molto valorizzata, perché parla proprio dell'uno duale, no? Uno duale. Quindi non esiste Adam di Genesi 1, in realtà è l'umanità. Dopodiché Adam si articola in lui e lei, Ish Isha, e questo è l'uno duale, uguali nella dignità e differenziate, psicologia, antropologia, tutto quanto. Ora, tornando al discorso che ci interessa adesso, senz'altro, ed è molto interessante, qualcosa è stato fatto, più si farà, la ricerca di queste coppie nella storia della Chiesa, che non è da oggi, perché basterebbe pensare a Teresa d'Avila e Giovanni della Croce, se abbiamo nel Siglo d'Oro i massimi mistici, lui e lei, che guarda caso, lui è il padre spirituale di Madre Teresa di d'Avila, e però è più giovane, e Teresa d'Avila è madre spirituale di Giovanni. Giovanni è formato da lei e lei è guidata da lui. Lì i carmelitani dovrebbero ancora molte ricerche su questa reciprocità, l'uno duale nel Carmelo, nella storia del Carmelo. Qualcosa si può ritrovare, analogicamente per carità, in questa ineffabile fraternità, che è senz'altro ineffabile in tutti i sensi, ma anche molto molto anomala, perché è una amicizia che dura tutta la vita fra due personalità molto diverse, e la meraviglia lo sottolinea molto bene, ma che si capiscono benissimo, si aiutano, si provocano, si stimolano reciprocamente, e a mio avviso sembra che la Suor Maria dà molto, molto a Don Primo, perché, adesso leggerò qualche piccolo passo che c'è in questo carteggio, e lui spesso ricorre a lei quando ha dubbi, quando è in crisi, quando ha grosse difficoltà, anche persecuzioni, vuoi politiche, vuoi ecclesiastiche. Ecco, e sorella Maria è per lui un punto fermo, un riferimento sicuro, quando ha dei dubbi è lei che li risolve. Però qui scatta qualche cosa di molto, molto femminile, il genio femminile di cui parlava Giovanni Paolo II nella Moliris Dignitatem. Genio femminile, guarda caso, lei è l'eremo, lei è un eremita, spirito francescano, sobrietà di vita, lavoro, l'accoglienza, l'ecumenismo, eccetera, eccetera, però sempre molto interiore. Don Primo è un uomo di frontiera, è un uomo che combatterà soprattutto già l'opposizione al fascismo, diremo qualcosa lungo la resistenza, ma soprattutto nel dopoguerra, con il quindicinale adesso, eccetera, eccetera. Quindi questa ineffabile fraternità è singolarissima anche perché questo carteggio ventennale è impressionante, perché abbiamo 149 lettere di sorella Maria e 90 di Don Mazzolari. Anche questo non è trascurabile. 149 a 90, facciamo conto tondo, 150 a 90 su 60 di differenza, allora vuol dire che è lei che trasfonde di più. Lui spesso dà anche, ma molto di più riceve, a mio avviso. Però dopo Mariangela risponderà se vorrà, se potrà, perché le cose sono, le domande che le sono state poste dai Mafattorini, eccetera, sono molte. Per conto mio, l'apertura ecumenica, cattolica nel senso classico, la cattoliche, l'universale, di Suor Maria, è documentata in questi suoi rapporti, che sono già stati ricordati, in questa silenziosa campagna umbra. Sorella Maria ha una fitta corrispondenza non solo con Don Primo, che è quello che ci interessa stasera, ma io leggo semplicemente i referenti che sono citati qua dentro, no? Promotrice della cultura della dignità femminile, come Antonietta Giacomelli, Adelaide Coari, queste sono donne che proprio, diciamo, nel primo Novecento hanno preparato quella che sarà poi l'evoluzione positiva in meglio della donna anche nella Chiesa oltre che nella società. Poi lei ha rapporti epistolari sempre, no? Con, per esempio, storico e filosofo delle religioni Friedrich Heiler, e qui siamo già in un fratello separato, si direbbe oggi, allora si chiamava solo protestante, il sindaco di Firenze Giorgio Lapira, il biblista perugino Umberto Fracassini, il teologo domenicano Yves Congar, lo storico del movimento francese e altro protestante Paul Sabatier, il pastore valdese Giovanni Luzzi, del quale all'eremo si utilizza la traduzione biblica interconfessionale in anni certo preconciliari e di molto, il teologo luterano, musicista, medico, eccetera, Albert Schweitzer. E poi c'è Vannucci. E poi c'è il carteggio col Mahatma Gandhi, che una delle tante lettere, non è una sola, c'è una corrispondenza. Io sono riconoscente e in venerazione, dice Sor Maria, io sono riconoscente e in venerazione per la Chiesa della mia nascita e della mia famiglia, ma la Chiesa del mio cuore è l'invisibile Chiesa che sale alle stelle, che non è divisa da diversità di culti, ma è formata da tutti i cercatori della verità. Questa è una frase che dopo la troviamo nel Concilio Vaticano II, nella Gentes. Questa, se non precorrono il Concilio, Don Primo, Sor Maria, tanti altri per carità, Però qui abbiamo la meraviglia, alla fine finirò con la citazione sua, proprio che parla di questo precorrere e preparare il Concilio Vaticano II. Questa apertura di Suor Maria, vedendo una Chiesa, pur essendo piena di riconoscenza e venerazione per la Chiesa della mia nascita, della mia famiglia, ma nel mio cuore c'è la Chiesa che sale le stelle, che non è divisa da... Don Mazzolari, negli anni 30, quindi anni non sospetti, iniziò già a tenere conferenze, pubblicare articoli, libri, nei quali tentava di superare l'idea di Chiesa società perfetta, come si diceva allora, e cercava di riscoprirne invece le dimensioni mistiche, anche riconoscendo onestamente le debolezze e inadempienze della comunità ecclesiale, proprio al fine di preparare un futuro migliore per la Chiesa e il mondo, una Chiesa che fosse comunità accogliente. E questo Suor Maria l'ha fatta benissimo, tant'è vero che ha avuto noie con la gerarchia ecclesiastica umbra e toscana, perché nel suo eremo accoglieva, c'erano fra le sorelle, due protestanti. Nell'eremo andavano, venivano personaggi protestanti, induisti, buddisti, eccetera. All'eremo, e questo è importante, lo sottolinea la nostra curatrice, la Maria Viglia, si è formata, perché l'ha detto lei, qui a Roma, prima di essere ammazzata in Somalia, l'Annalena Tonelli. Annalena Tonelli, questa donna straordinaria che ha portato in Somalia una ventata che poi si è pensato le guerre civili in corso, ha distrutto tutto ed è stata ammazzata anche lei. Annalena Tonelli, lo dice lei, io mi sono formata lì, e lì che ho preso lo slancio. Ecco perché insisto che anche Don Primo Mazzolari lo slancio le viene da Suor Maria. Suor Maria l'ha dato ad Annalena Tonelli, Suor Maria l'ha data a tutti questi vari personaggi che ho citato prima, perlomeno li ha portati tutti verso una visione più ecumenica, più universale, eccetera. Interessante, poi salto, nel 42, fra l'altro donna coraggiosa questa Suor Maria, io non avrei osato e credo che neanche Mazzolari. Nel 42, 21 giugno 42, scrive a Pio XII. Ora, mettetevi nei panni di quel momento, di una, come dire, la società perfetta, in senso perfetto, e confidava al Papa tranquillamente, serenamente, questa Suor Maria. Ecco dove io ammiro questa Suor Maria, nel coraggio che le viene da una semplicità, da una, non so da dove, insomma, comunque io non avrei mai, poi mai neanche pensato di scrivere a Pio XII, per carità. Questa invece tranquillamente le scrive, lei che è un eremo nell'Umbria, le scrive: sono una vecchia eremita. Vivo con alcune compagne in un antico eremo francescano nel cuore dell'Umbria. Per me la fraternità riverente verso i fratelli separati, nel 42, non nel 62, per me la fraternità riverente verso i fratelli separati, verso ogni esperienza religiosa sincera, Mahatma Gandhi, seppur diversa dalla nostra, è un mandato inflessibile, mandato, comandamento, ed è anche luce sul cammino mio, della comunità, della Chiesa. E spiegavo al Pontefice che, dopo aver riferito all'arcivescovo di Spoleto che lei accoglieva questi qua, non mi ha mai permesso di celebrare la messa quassù all'eremo, a causa sentite le cause, no? L'arcivescovo di Spoleto, peggio di Pio XII, a causa dell'amicizia con Buonaiuti, è già stato ricordato, e l'imponeva l'arcivescovo, interrompi i contatti con Buonaiuti, scomunicato, è già stato detto, o se no, niente messa. E vabbè, niente messa. So benissimo che la scomunica vieta rapporti con uno scomunicato, scrive a Pio XII, continuo la lettura della lettera, ma io ho la più grave delle ragioni, quella di un'amicizia indefettibile e che oso chiamare santa, come se in questo attimo dovessi rendere conto della mia coscienza a Dio, non all'arcivescovo di Spoleto e neanche a Pio XII. E manda per conoscenza questa lettera a Mazzolari. E Mazzolari, colpito da quelle parole, vedete, ma non facendosi illusioni, ecco perché Mazzolari non avrebbe mai scritto, perché era un uomo coi piedi per terra, Sor Maria era già nelle stelle. E allora le risponde, conoscendo la strettezza spirituale di certi ambienti, questa è l'ora della fedeltà silenziosa, consumata, in un'oblazione monda e sincera. In alto, tra gli uomini, possono anche non tenerne conto e giudicarla diversamente, gli uomini di Chiesa. Ma più in alto viene raccolta e messa in conto di espiazione e di testimonianza per un domani migliore. Ecco, questo uomo qui capisce che Sor Maria ha perfettamente, è profeta, però lui sa anche che i tempi non sono ancora maturi. Salto perché altrimenti non diamo tempo a Maraviglia. Succede nel 43 armistizio, la situazione politica precipita, eccetera. Don Primo entra nella resistenza, viene arrestato, fugge, eccetera, è in clandestinità e guarda caso, proprio quando è in clandestinità, scrive a Sor Maria dalla clandestinità. Quindi è anche questo un passaggio molto interessante e le scrive: le altre tappe della mia vita saranno secondo i voleri di Dio. Adesso devo solo scappare. Non mi rifiuto di soffrire, quando il soffrire è l'unico pane che tutti abbiamo in abbondanza. Non so quando potrò tornare. Ovunque è chiesa, ovunque è altare, lo portiamo con noi. Questo non mi impedisce di ascoltare lo schianto che ho dentro, perché vedo un domani pauroso. E infatti il domani pauroso sappiamo com'è stato, perché questo lo scrive nel 44. E Suor Maria, pronta, eccolo, la consolazione, il De Consolazione Filosofie, scritto Severino Boezio, qui invece c'è una De Consolazione della Mistica, le scrive: possiate avere ciò che può alimentare il vostro spirito, la vostra sensibilità patetica e squisita, un raggio di consolazione interiore, il saluto d'una foglia d'autunno, d'una stella, d'un innocente, la benedizione di chi soffre e di chi muore. Salto al 49, Mazzolari fonda il quindicinale adesso, proprio per portare un contributo veramente cristiano al dibattito politico, religioso, culturale, post bellico, eccetera, per preparare la primavera del concilio che verrà con Papa Giovanni, ma siamo ancora nel 49, 50, e dice tutte le difficoltà che sta attraversando, eccetera, dice Sor Maria, la fede è sostanza di cose sperate, è certezza, è comunione, che in un certo senso anticipa il possesso delle cose sperate. La fede è sostanza di cose sperate. Questo è il momento di sperare e anticipiamo quello che verrà. Più che un momento conoscitivo, ecco il punto, è un momento mistico, cioè il congiungimento misterioso e ineffabile, ecco il titolo, ma reale, della mia povera vita con la vita infinita di Dio. E si definisce panica, questo è molto bello, molto bello. Pagina 48, dice, io sono panica, fra virgolette, cioè trasfusa nelle creature, nel tutto, panteista, in realtà però è un panteismo di comunione, non di confusione che ci si disperde. E spiega così il suo pancristianesimo, quindi pancristianesimo, neanche il Concilio Vaticano II ci è arrivato. E quindi è più avanti ancora, arriverà col Vaticano III, con pazienza. Forse. Considero che le diverse chiese cristiane o i membri coscienti di queste chiese, sa distinguere bene, sono chiamati a dare un loro contributo allo spirito ecumenico, gettando sale nelle acque malsane e insipide della nostra cattolicità romana. Più chiara di così, 264. Naturalmente, intanto il povero Don Primo e adesso, eccetera, interviene il Vaticano, viene soppresso, il periodico fu costretto a cessare le pubblicazioni, in luglio arrivarono altre misure contro Don Mazzolari, la proibizione di predicare fuori diocesi. Ci voleva il consenso dei vescovi interessati, il divieto di pubblicare articoli senza preventiva revisione ecclesiastica. E il buon parroco di Bozzolo scrive a Sor Maria, fra parentesi, lei si definisce la minore. Bellissimo. Allora scrivi alla minore. Don Primo, vi precedo l'ultimo adesso, per dirvi che tutto è come Dio vuole e che sono in pace, anzi nella gioia. Non mi preoccupo del domani. Mi verrà detto a suo tempo da chi, maiuscolo, solo può, come dovrò lavorare per lui, se potrò ancora lavorare. Ma adorare, tacere, soffrire, sottolineato, adorare, tacere, soffrire, si può sempre, se lui ci dà una mano. Pagina 261. E lei, come sempre, trovando la parola giusta, gli scrive: abbiamo ricevuto il colpo di grazia. È molto chiaro. E dovremmo prepararci a nascere di nuovo. E qui c'è già, secondo me, un presagio, perché il periodico si riaprirà nel novembre di quello stesso anno, benché sotto un'altra direzione. Comunque, salto la fine per dare finalmente spazio a Maraviglia e vorrei sottolineare con lei proprio quello che dice a pagina 73 della sua ricca, esauriente prefazione, che tutte queste lotte, sofferenze, hanno preparato veramente il Vaticano II, perché voi ricordate che poi Giovanni XXIII lo riceverà, il Don Primo Mazzolari. Comunque, nella primavera del Vaticano II avviene la riscoperta della Bibbia, e lei leggeva la Bibbia interconfessionale di Luzio. Le aspirazioni ecumeniche, il rinnovamento liturgico, il dialogo interreligioso con le altre grandi religioni, l'impegno per la giustizia, la povertà della Chiesa, la ricerca della pace, quasi tutti i concetti chiave di un ideale lessico ecclesiale che dagli anni precedenti al Vaticano II giunge fino a noi, sono qui rintracciabili in queste pagine, nelle vicende che queste pagine ci fanno rivivere. Grazie. Grazie a Padre Van Zan. Mi pare che adesso possiamo finalmente dare la parola anche alla curatrice Mariangela Maraviglia. Allora, naturalmente grazie, grazie di cuore, grazie di un'attenzione per una figura, come diceva prima Emma Fattorini, che effettivamente appare dimenticata. Tanto un grazie anche a chi mi ospita, oltre alla attenzione da parte di chi appunto ha voluto parlare e ricordare ampiamente, questo evita che io aggiunga alcune cose. Un grazie, devo dire, permettetemelo, prima lo ricordavo con Emma, prima lo ricordavo con Vittorio, anche ad alcuni amici che sono amici di alcuni di noi, che hanno visto, ispirato o comunque hanno nutrito questo mio desiderio di occuparmi di questo persone. Uno è Giuseppe Trotta e un'altra persona è Luciano Martini, a cui ho dedicato il volume, e anche sorella Brigitte che, a cui anche ho dedicato il volume, che dopo una lunga fatica, ispirata devo dire soprattutto da Luciano Martini, professore di Firenze, mio ispiratore anche allo studio di Mazzolari, doppio direttore di tesi sia alla facoltà di lettere che alla facoltà che alle scienze religiose, poi lui ha cominciato a insegnare là, l'ho ritrovato. Ecco, allora, proprio grazie un po' anche a questi stimoli, o comunque a questo retroterra profondo, interiore, per me arricchente, straordinario, sono andata con i miei libri su Mazzolari, da queste sorelle, e questa è una chiave per cui si parla così poco di Maria. Sono andata da queste sorelle e ho messo alcuni anni a convincerle che valeva la pena finalmente di parlare di Maria. Non si parla di Maria perché c'è questo desiderio da parte di Maria stessa, originario, di non parlare di se stessa. Perché? Un po' la dimensione della minorità, francescana, tratto costitutivo sicuramente della sua esperienza, non fondazione, perché appunto non è fondatrice, della sua esperienza, ma anche la paura di Buonaiuti. Non insisto, parola e nome più volte tornato. Maria ha un carteggio lungo tutta la loro vita, da quando si sono conosciuti nel 1918, la vita di Buonaiuti, 1946. È un carteggio in gran parte distrutto per volontà di Maria, perché si temeva, a ragione, che questo danneggiasse le sorelle e quindi anche la vita dell'eremo. Quindi c'è questo retroterra, questo desiderio di nascondimento, questo desiderio di silenzio, e questo desiderio di silenzio è stato conservato anche a lungo dopo la morte di Maria, più a lungo di quanto uno storico desideri che appunto questo avvenga, e soprattutto più a lungo di quanto un'esperienza di questo genere, come dire, in qualche modo permette. Un'esperienza troppo ricca, troppo viva, troppo arricchente per noi, anche per chi appunto sente di inserirsi in questa linea, per la nostra vita spirituale, per permettere che non sia conosciuta. Ecco, allora, un po' con questo interesse di tipo storico, in parte, molto di tipo esistenziale, personale, nutrimento di fede, eccetera, ho convinto queste sorelle a darmi questo carteggio, e che era proprio un dono che andava fatto al mondo. Ecco, questa. È vero che, e quindi in parte c'è questa realtà, in altra parte c'è da registrare comunque che è una figura che per ora, ma chissà, forse piano piano, per ora non è entrata in una coinea, in una capacità appunto di farsi leggere. C'è da dire anche che il testo di Morozzo della Rocca fatto fare, proprio perché si incominciava a parlare di sorella Maria in maniera impropria, con una serie di imprecisioni, qualcuno scriveva qualcosa e c'erano degli errori. Le sorelle decisero di far fare questo testo a Roberto Morozzo della Rocca, che è della comunità di Sant'Egidio e quindi fratello nella fede, fratello anche compagno di una delle sorelle dell'Eremo, entrate all'Eremo negli anni 80. Quindi ci fu un primo, diciamo, apertura, una prima dimensione di questo genere. Poi sono usciti altri due carteggi editi da Chicaion, il carteggio fra sorella Maria e padre Giovanni Vannucci, e poi appunto questa mia, nello stesso tempo, quasi contemporaneamente, questo mio essere riuscita a convincerle appunto su Mazzolari. Quindi incomincia ad esserci un piccolo patrimonio di letture che possono essere fatte. È un piccolo patrimonio abbastanza, come dire, non dico esauriente, sarebbe bello poter avere l'archivio e questo vedremo il futuro che cosa riserva. Però Maria, non avendo mai scritto niente, le lettere, ed avendo questo suo, come dire, elemento fondamentale nella corrispondenza, le lettere sono davvero il luogo in cui lei emerge, in cui lei racconta. E questo mi sembra sia anche un po' un elemento, naturalmente sono a questo punto non come dire ordinata, rispondo un po' all'una e all'altra, e questo è anche un po' un elemento che secondo me in parte giustifica, in parte spiega, in parte come dire dà una possibilità di comprendere meglio anche la possibilità di una pubblicazione di questo genere. È una pubblicazione, e le lettere in particolare, in cui Maria in parte parla di se stessa, di un'interiorità, di una spiritualità, ma molto anche del quotidiano dell'Eremo. Quindi dalle lettere proprio emerge la vita dell'Eremo e la spiritualità dell'Eremo anche nel farsi materiale dei gesti, delle piccole liturgie, della vita, ma anche della descrizione dei luoghi, del luogo dove vivono. Ecco, allora direi che proprio i carteggi restituiscono la spiritualità anche nella materialità e nella come dire quotidianità delle descrizioni, e questo mi sembra che sia come dire davvero un elemento che permette di dire che bene che siano stati, quindi di difendere il mio lavoro, che siano stati pubblicati, ma anche è già molto. Il resto, si è parlato qui di un carteggio con Gandhi, c'è anche una raccolta di detti di Maria raccolti appunto da padre Giovanni. Il resto sono stati in realtà pubblicati, fra virgolette, editi dalle sorelle pro manoscritto, e circolano proprio fra pochi amici, fra le persone che la vanno, fra le persone che possono avere un contatto personale con chi là è stato. Io naturalmente sono diventata una diffusore, no, di questi piccoli scritti, perché anch'io appunto come Fattorini è ovvio che sono innamorata di questa figura. D'altra parte un lavoro di questo genere, fatto nel tempo libero che la scuola concede, nelle estati, nasce da un innamoramento, no? E dalla percezione di un nutrimento spirituale che sia a me, ma anche a chi vorrà leggerlo, volesse leggerlo, può venire da questa appunto lettura. Ecco, quindi per ora abbiamo questo, abbiamo questi carteggi che già dicono molto, proprio perché Maria narra di sé, e nel narrare di sé della vita delle sorelle narra anche della sua spiritualità, e poi appunto la dimensione di Morozzo. Speriamo che questo, io davvero, per me è stata un po' una scommessa anche personale, interiore, speriamo che da questo nasca anche una attenzione maggiore alla realtà di Maria e che questa eco davvero si amplifichi. Oltre alle due figure, qualcuno mi ha detto Mazzolari, si dirà qualcosa di più. Io direi, per Mazzolari vi rimando a un altro anno. Io faccio parte del comitato scientifico della Fondazione Mazzolari. Un altro anno sono i 50 anni dalla morte di Mazzolari, 1959-2009. Ci saranno due grandi convegni, tutti noi della Fondazione siamo disponibili anche a andare a parlare naturalmente, ma i convegni approfondiranno alcuni elementi naturalmente per ora magari rimasti, sia del cattolicesimo del tempo, anche di Mazzolari stesso, ma anche del contesto in cui si è sviluppata questa esperienza, così singolare, perché è un prete assolutamente singolare nella sua generazione di Mazzolari. E quindi su questo. Allora riprenderei invece due o tre tematiche che sono qui emerse anche come domande specifiche, è per esempio la dimensione dell'ecumenismo. La dimensione dell'ecumenismo, sì, è stato detto bene, Maria non è semplicemente un'ecumenica, anche se si usa questa parola ecumenismo in senso direi ampio per lei, non si tratta soltanto dell'attenzione ai fratelli separati, fra l'altro una bellissima frase di Maria diceva non posso sentire quella parola, separati da chi? Quindi ecumenismo sì, certo, c'erano due sorelle anglicane laddove in quei tempi gli anglicani, come tutti i protestanti, erano naturalmente visti come nemici dei cattolici, ma c'era appunto questa apertura anche a Gandhi, poi ci andrà Lanza del Vasto, figure appunto di più vasto respiro, sono dell'Oriente, la dimensione dell'essere dell'Oriente, diceva Maria, sono dell'Oriente perché l'Occidente mi fa paura. Ecco, dove si colloca, dove nasce? Io sto scrivendo un altro saggio sull'ecumenismo dell'Eremo di Campello e quindi sull'ecumenismo di Maria, qualcosa di più cercherò di dire a partire appunto dai documenti che ho. Certamente Maria ha questa dimensione comunionale, forse si può dire con la natura, questa dimensione che la rende sorella in comunione con tutto e con tutti. Ecco, io uso qualche formula, non so, andranno ripensate, io penso, ho parlato di un cristocentrismo degli orizzonti illimitati, perché? Perché Cristo certo è al centro, perché certo la natura è in parte sembra trasfusa nella natura, sembra così appunto questo quasi di panteismo, ma tante volte invece sembra no, e qui do questa lettura alla quale sto ripensando, sembra invece appunto una natura sorella in una comunione di figli, tutti figli dell'unico padre, ma insomma sono cose anche difficilmente delimitabili, difficilmente acquisibili e definibili. Maria dice tante volte non sono una teologa, a me non interessa l'ecumenismo delle chiese, non interessano i dibattiti, interessa la semplice vita, e quindi ecco, anche dare queste definizioni, però si può cercare naturalmente di approfondire questo dimensione in cui certo Cristo è al centro. In questo io credo che padre Giovanni Vannucci, lui sì, figlio spirituale di Maria, altri sono rapporti misti, rapporti in cui si va da Mazzolari a Maria, altre figure, lui sì, figlio spirituale di Maria, lui accentua questa dimensione cristocentrica, certo c'è la sua lettura, va mediata anche attraverso la sua lettura, ma insomma ecco, è un elemento sul quale dovremo come dire approfondire ulteriormente. Oltretutto qui si trattava di introdurre a un carteggio, non si trattava di come dire, esaurire insomma, tutti i temi della riflessione. Quindi questo ecumenismo da dove nasce, ecco, rimane un po' un problema. È interessante anche la biografia di Maria Morozzo, dice qualcosa, certo questa famiglia mazziniana, questa democrazia in famiglia, questa fin dalle origini, un padre con dimensione in qualche modo mistica, sia pur non solo laico ma proprio non credente, ecco c'è anche una biografia nella quale si interseca naturalmente anche questo suo poi emergere come donna singolarissima nella chiesa del suo tempo, quindi molto secondo me è da dire e molto è da approfondire. Certo è che a un certo punto si trova in Maria espressioni, io fino dalla mia giovinezza religiosa mi sono sentita libera e in questa libertà vicina a tutto e a tutti. Quindi c'è un mistero poi insomma della persona che certamente poi noi dobbiamo rispettare e siamo costretti comunque a rispettare, però c'è una libertà che in lei emerge in maniera particolare e così, e appunto lei dice improvvisamente così mi sono sentita, e in questo la vicinanza a tutti questi fratelli, storie diverse, percorsi diversi, modernisti, teosofi, anche teosofi. Perché in realtà questi amici di Firenze, io poi è una ricerca che ho fatto successivamente, sarà in questo nuovo saggio, questi sono teosofi. E questo va a finire con Anni Besant, poi questo Giorgio Guido Ferrando, queste figure difficili anche ricostruire, io ho cercato un po', insomma qualcosa però si incomincia. Questi nella villa di Poggiochiaro, dove le sorelle andavano a svernare, diciamo, per questa, questi avevano ospitato, ospitavano Krishnamurti. Quindi questo vuol dire appunto teosofia, no? La tangenza fra Krishnamurti. Quindi perché? Perché non c'è a questo punto una difesa, non c'è nessun dogma, non c'è nessuna verità da difendere contro gli altri. C'è un cammino comune da fare con tutti, c'è un cammino comune da fare con tutti i sinceri cercatori della verità. Ecco, e qui io, e chiaramente qui il cuore batte, qui non solo il cuore della storica o comunque l'interesse a ricostruire un mondo, un ambiente, un periodo, ma certo questo è una dimensione di fede che a molti oggi, non certo a tutti, a molti oggi può avere molto da dire. Ecco. Allora, la scommessa è un po' nata su questo duplice piano, un piano storiografico, si ricostruisce un ambiente, un piccolo mondo che dal modernismo porta al Concilio Vaticano II, dagli esiti, ma dal Concilio e oltre, cioè porta al Concilio perché poi nel Concilio alcuni elementi, io non so se loro sono coloro che hanno preparato, certamente stanno lì nel mezzo e covano queste realtà minoritarie sotto traccia, covano tutta una serie di elementi, covano e vivono, cioè la cosa interessante non è che covano, piangono, covano e vivono tutta una serie di elementi che poi nel mondo, nel momento del Concilio riemergeranno, molti altri dovranno ancora riemergere, per esempio le dimensioni interreligiose, ma tante altre cose e tante altre realtà potranno appunto essere anche... E quindi ecco, da una parte questa passione per questo piccolo mondo che è veramente ricchissimo, avete detto dei nomi ma se ne potrebbero fare moltissimi altri e per esempio secondo me è interessante il nome di Padre Giovanni, che anche questo incomincia a essere molto pubblicato, ha degli amanti Padre Giovanni Vannucci, nato a Pistoia nella mia città, Pistoia quasi dimenticato, io sto riproponendo lo studio di Giovanni Vannucci e la così insomma almeno la pratica anche dei libri di Padre Giovanni. C'è comunque un centro alle Stinche in Toscana, Panzano in Chianti, da lui fondato, un eremo esemplato in parte sull'eremo di Sorella Maria, la considera appunto, come dicevo prima, la sua madre spirituale, quindi un'altra bella figura di dialogo e di apertura senza confini come Sorella Maria. Ma un'altra figura con la quale si intercetta all'interno di questo carteggio, ma dico solo queste perché poi sarebbero molte altre, proprio davvero un piccolo mondo che vive, che pulsa oltre e sotto una sorta di cappa, una di copertura, che così tutta la pratica antimodernista, tutta la paura, il terrore di questa realtà, come dire, in qualche modo rendeva, appariva, voleva rendere monolitico, in certi anni, gli anni dell'onnipotenza, Mario Rossi ha detto, sotto c'era tanto in questo mondo. E un'altra di questa figura è Don Michele Do, non è un eremita della montagna, Don Michele Do, assolutamente sconosciuto perché anche lui vissuto a Saint-Jacques d'Ayas, dove sono stata anche recentemente, discepolo di Maria e Mazzolari, figura che i due dicono più volte, ma lui deve uscire a 40 anni ormai in quel luogo sperduto eccetera eccetera, e lui là aveva costruito a sua volta il suo eremo, in realtà parroco, ma 2.000, 5.000, 10.000 persone e per Ottoroldo e Camillo De Piazza e tutta una serie di Balducci, tutta una serie di figure che andavano là a parlare con lui, a fare seminari. Quindi un piccolo... Turoldo è anche in Don Zeno, cioè è tutto un piccolo mondo strettamente interrelato che appunto si ritrova all'interno. Un ultimo accenno alle donne e poi il mondo delle donne. Qui accapano, in qualche modo hanno relazioni, tantissime donne, in parte conosciute, Adelaide Coari è già stata detta, Antonietta Giacomelli c'è un carteggio molto piccolo, però in parte anche del tutto sconosciute, Sofia Vaggi Rebuschini, che ha rapporti sia con sorella Maria che con Mazzolari, ho riportato dai Vaggi 800 lettere di Sofia Vaggi Rebuschini alla Fondazione. Quando ci saranno a Mazzolari, Sofia Vaggi Rebuschini a Mazzolari, non c'erano ancora. Io dopo sono stata contattata dai Vaggi, i quali mi volevano consegnare queste lettere perché li avevo conoscute, però naturalmente le ho consegnate immediatamente, cioè ho convinto a consegnarle alla Fondazione. Ecco, quindi donne bellissime, donne da studiare, 800 con grafia spaventosa, e se un giorno avremo naturalmente la possibilità di tutte da studiare, ma Margherita Bartalini, ma ecco, donne straordinarie che andrebbero così lette e viste. Insomma, quindi una piccola miniera molto bella nei due personaggi che già da voi sono stati tratteggiati, ma anche molto bella in una serie di altre figure che si intersecano, che stanno in questa bellissima rete e che parlano di un cristianesimo vivo, di un cristianesimo saldo e nello stesso tempo di un cristianesimo libero, di un cristianesimo con venature mistiche, che quindi non ha paura della gerarchia, vive, non vuole contestare, non vuole disfare, non vuole contrapporsi, ma certamente vive, questo dice Enzo Bianchi, una sua, no, lo dico anch'io, lo uso questa parola, che una sua parresia, una sua franchezza cristiana, per cui al Papa si possono dire le cose che ricordava Fattorini e Vanzane, e per cui Mazzolari poteva scrivere quelle cose che peraltro gli sono costate nella sua vita 9 richiami, mai una scomunica, ma 9 richiami disciplinari. Ecco, mi sembra che da questo cristianesimo, senz'altro io, ecco, forse qualcun altro, possiamo imparare qualcosa. No. Questa lettera fu rinviata di nuovo. No. Questa lettera fu rinviata al vescovo, cioè quindi ci fu tutto un lavoro di curia, un lavorio di curia, un'osservazione che durò molti anni su Maria. E appunto, insomma, un tentativo in qualche modo di vedere, insomma, di cogliere, di capire che cosa di eterodosso, di pericoloso c'era in questo luogo. Devo dire che anche l'osservatore, l'inquisitore, come diceva sorella Maria, alla fine rimase conquistato dal cristianesimo della sorella. Quindi in realtà, ecco, poi atti specifici no, però succedeva che i preti non ci potevano andare, i laici non ci potevano andare, quindi ecco, non una esplicita condanna, ma certo una continuo come dire, desiderio e forzatura perché le persone non andassero all'eremo, cosa che non succedeva. I preti vicini andavano, in particolare un prete all'eremo, molte altre figure sacerdotali anche non in odore di modernismo andavano, e le sorelle avevano in realtà un rapporto, una rete affettiva, tant'è che una delle sorelle entrò proprio da una famiglia della zona. Quindi, diciamo, poca fortuna in un certo senso, nella forma la possibilità di bloccare, non si fa la messa e i laici non vanno, nella sostanza una vitalità intangibile. Questo forse se andiamo a studiare gli archivi vaticani, in quegli anni lì, ancora siamo del 42, sì, 42, no, dove arrivano? Ecco, più 11, sì. No, comunque no, non sicuramente, queste cose arrivavano prima, arrivavano, cioè venivano bloccate prima. Che arrivata, cioè, no, che una che è arrivata intercettata, più abbastanza, questo abbiamo. No, io Com'è? Sentiamo Padre Verzano, questa domandina. Dunque, innanzitutto bisogna sempre distinguere che nella Chiesa ci sono i mistici, i profeti, eccetera, e poi ci sono invece i tutori dell'ordine stabilito, la gerarchia, come dice la parola. Allora, secondo me, come del resto è stato detto anche altri personaggi, non solo Don Primo, sono profeti obbedienti, obbedientissimo in Cristo. Ecco, anche in piedi, cioè come diceva, soffriamo, però non demordiamo, nel senso che lui non è che siccome c'è una proibizione qua, c'è una proibizione là, si sospende. No, non è mio. Per nulla. Lui dice, vabbè, aspettiamo, ma non demordiamo. Comunque, io credo che... ecco qua è la Rosetta che ti chiama. Ah, meno male che hai sentito, perché... No, però, dico, Pio XII, Papa Giovanni, secondo me poi qui lo Spirito Santo è stato di una velocità rapidissima, perché di solito i tempi nella Chiesa sono molto più lunghi, no? Siccome la Chiesa è eterna, quindi ha tempi lunghi. Invece, caspita, nel 62 apre già il Concilio Vaticano II, quell'altra scrive nel 42, sono appena 20 anni, è una cosa proprio ieri. Proprio ieri, una cosa incredibile. Achille che è veloce. Esatto. Quindi non è che questi che hanno preparato il concilio, come ha detto bene lei, così soffrendo, agendo, pregando, hanno aspettato tanto, perché hanno fatto in tempo a vederlo. Addirittura hanno fatto in tempo a vederlo, cosa incredibile, cosa che né la Caterina da Siena ha potuto vederlo, né... a suo tempo ha fatto tantissimo per rinnovare la Chiesa, ma non ha visto i risultati del suo agire. Comunque, questo sarà l'oggetto di una prossima. Comunque, con Giovanni XXIII e l'annuncio del Concilio, i due si dicono, Mazzolari scrive a Maria, con Giovanni XXIII sembra che torni nella Chiesa un respiro materno. Ecco, bello, questo, molto bello. Quindi una Chiesa dal volto materno, dal respiro materno, e due proprio nelle ultime lettere si confidano, diciamo, questa speranza. Poi Mazzolari muore nel 59 e Maria morirà nel 61. Ma insomma, però, ecco, questo no, non fanno in tempo a vedere appunto il... Sentono l'annuncio, però c'è già l'annuncio. L'annuncio, sì, sentono l'annuncio. Quindi... Nunzio vobis gaudium magnum, abemus concilium. Vabbè, insomma, lavoriamo su questo. Possiamo aspettarci. Sì, come no. Bene, ci sono ancora... Allora... Siamo in tempo canonico. Bene, allora... Sì. Non abbiamo violato la regola. Volevo chiedere, secondo voi, non io, ma quelli della generazione spesso me, lo vedo così come di Vaticano III. Anche questo Padre Vanzano. Mi pare difficile, perché dobbiamo pure vedere come ci va di un'altra volta. Si è arrivato quello. È stato annunciato. Sì, però ci sono state delle false piste, cioè. Però io, ecco, devo dire questo. Io però noto, ma questo sarebbe davvero un altro tema, però queste figure e il concilio danno comunque la possibilità di vivere, confermano la possibilità di vivere comunque una dimensione come questa, cioè in realtà ancora sotto traccia, sotto a volte certi pronunciamenti che appaiono così, insomma, però ecco, c'è una grande vitalità nella Chiesa. Chi vive, conosce, gira, io ho girato molto sia per scelta personale, anche per questo libro, ma insomma anche per motivi miei, c'è una grandissima vitalità, cioè in realtà ci sono, mi pare, tanti cristianesimi in cui c'è anche Mazzolari, c'è anche Maria, anche se non c'è quella così riconoscimento che noi vorremmo. Per cui il nostro tempo ci dà questo respiro, questa possibilità di comunque fare esperienze. Ecco, io è un momento in cui io non do mai una lettura negativa, dico vabbè, insomma, c'è questa realtà, c'è una chiesa istituzionale che ci dà, rimanda dei messaggi, però c'è anche tanta vitalità che possiamo cercare, riconoscere e potenziare. Ecco, questo.